Omaggio a Francesca Nimis Loi, poetessa dalla malinconica vena, al compositore Luigi Garzoni di Adorniano che ha rivestito di patetiche note. O ciampanis de sabide sere, che pe fieste sunais di vigrie, veste vos imprignove poesie, di confuar, di speranze e preiere. Pari prats, pesculinis vie vie, come a vongulis, rive a nol son. E ogni cur, al devente plui bon, tal scolta queste musiche pie. Bagliori di guerra saettano in cielo, l'ansia della pace cova nei cuori fatti più buoni. O ciampanis de sabide sere, tignit cont de plui biele armonie, personale alla fin della guerra. Ricciolina anellati, a catena, ricordano quelli degli angeli dipinti nelle chiesette cinquecentesche del Friuli. Mi rubano il cuore. Che i risoz faz a chiadene, lor mi porti in via il cuore. Tutto qui, una pennellata che per gli occhi entra nell'animo. Emigrante o soldato, devo partire. Canta il gallo, biancheggia l'alba, mandi, mandi Ninineme. In quattro versi l'accorata invocazione di una gioia troppo breve, di un doloroso distacco, di una lunga nostalgica attesa. Friuli Migrante. Al Chiante il Giallo, al Criche il Dì, mandi, Ninine, mi toce, partì. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, musiche del Friuli, 40ª trasmissione dedicata agli emigrati, musiche popolari e musiche di Franco Escher e di Luigi Garzoni di Adorniano.